Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Signori, attenti a quei due, Meassa e la Rosciani, con due di denari. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Mi vuoi fare la multa? Ormai tutto è una multa, una tassa occulta. C'è il divieto di sosta. E niente, ci sono delle località dove le forze dell'ordine sono assolutamente intransigenti rispetto ad ogni tipo di reato. Guarda, è così, perché in attesa probabilmente di intervenire con il nuovo DPCM che varerà, immagino, con decorrenza da domani, le limitazioni per quanto riguarda la profilassi sanitaria antipandemia, ecco che i vigili urbani del comune di Leni, forse per esercitarsi, hanno sanzionato due giovani utenti di monopattino. Esatto, due bambini di 4 e 6 anni. Esatto, molto giovani effettivamente. Sì. Motivo: intralcio al traffico pedonale per sosta errata di bici e monopattino. Forse per le rotelle, mi viene da pensare, perché sì, l'altro bimbo, essendo di 4 anni, può darsi che girasse ancora con la bici a rotelle. E quindi magari, che ne so, il vigile lì passava di lì, è inciampato sulla rotella, si è un po' arrabbiato ed ecco lì che ha piazzato 121 euro di multa. Ma la cosa non è passata inosservata ai genitori, peraltro due fratellini, sì, perché da quello che capisco appunto erano figli di un'unica persona, figli di due imprenditrici di Barcellona Pozzo di Gotto, che gestiscono un locale dell'isola dove i due bambini appunto sono stati pizzicati a commettere questo. Sì, è l'isola di Salina, perché Leni è un piccolo comune siciliano, Salina, proprio nell'isola, esatto, di Salina, delle Eolie. E allora praticamente loro hanno subito pagato, però una delle mamme è consigliere comunale d'opposizione. E quindi addirittura c'è qualcuno che ha sospettato che dietro alla multa ci potessero essere anche altri motivi politici. Addirittura un attacco politico. Comunque il sindaco di Leni ha smentito queste illazioni, ecco, e anzi avrebbe detto pure: bisogna educare i figli a parcheggiare la bici. Educarli da piccoli, piccoli. Piccolissimi. Abbiamo aperto così perché anche oggi anche noi vogliamo educare. No, in realtà facciamo spazio all'educazione. Mamma mia, che relazione che mi ha stabilito, neanche ci avevo pensato. Quindi dopo la mia freddura di ieri, che non mi ricordo più neanche su che cosa l'ho fatta, ma faceva pena. Hai detto pena. Che andava in pensione il PIN dispositivo dell'INPS, e quindi il gioco di parole era tra INPS, pensione e PIN dispositivo. Molto bene. Non so quanto gli ascoltatori se lo ricordino, forse molti l'avevano dimenticato. Mi dissocio da me stessa. No, invece noi oggi, perché dico che vogliamo fare educazione? Perché oggi è martedì, come sapete, da settembre e per tutto il mese di settembre e di ottobre noi occupiamo con la puntata del martedì con un ampio spazio dedicato all'educazione finanziaria, perché ottobre è il mese del risparmio, settembre ci è servito come avvicinamento a questo mese del risparmio. In collaborazione con il Comitato Nazionale per l'Educazione Finanziaria e con il portale www.quellocheconta.gov.it noi realizziamo degli approfondimenti ogni martedì dedicati a un tema diverso, che oggi poi diventano anche un podcast naturalmente da collezionare e custodire gelosamente. Oggi di che parliamo? Allora, legandoci in qualche maniera anche ai trasporti, certo, oggi parliamo di assicurazione, perché sì, lo diciamo molto spesso, gli italiani non sottoscrivono volentieri polizze assicurative per proteggersi da molti tipi di rischi, e questo significa appunto molto spesso trovarsi in una condizione di difficoltà perché non ci si è tutelati preventivamente da questo punto di vista. C'è anche da dire che abbiamo avuto grande dibattito in questi anni sulla polizza per l'auto, che in qualche maniera adesso non mi viene in mente, no, diciamo che è una spesa molto importante per le famiglie italiane, che in genere ti impedisce di pensare anche ad altre coperture assicurative, ecco, diciamo che non c'è una monopolizza un po' tutta la sfera protettiva, ecco. Non c'è tra noi italiani una grande predisposizione, no, alla polizza, alla copertura da eventuali rischi, e quando è obbligatoria sfiducia. La viviamo male, e no, la RC Auto lo dimostra. E quando non è obbligatoria, diciamo che lo facciamo di malavoglia. Esatto. Forse anche per una difficoltà, esatto, una poca trasparenza delle stesse polizze, delle compagnie. Insomma, sono tanti i motivi per cui noi siamo indubbiamente un popolo di sottoassicurati. E ne parleremo appunto a partire dalle 11.30 nel nostro alfabeto del risparmio. Ritorniamo alla A di assicurazione e anche alla A di Ania, perché sarà con noi un dirigente appunto della Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione. Abbiamo però naturalmente anche stamattina il nostro bellissimo giornale radio del risparmio, e quindi 800 24 00 24 se volete utilizzare il numero verde per intervenire in diretta, in particolar modo nella seconda parte di Due di Denari, oppure scriveteci copiosamente al 349 238 6666, ma è il numero che potete utilizzare per scrivere o mandare dei messaggi vocali anche su WhatsApp. Si parte? Drin Drin, edicola risparmio. Li abbiamo aspettati quasi come un parto, direi, plurigemellale e anche di un elefante, perché ce li abbiamo. Sono i due decreti del Ministero dello Sviluppo Economico. Senti sul 110%. Trionfale. Ma Deborah, sono settimane, mesi che li aspettiamo. Ma da agosto, te l'ho detto, un parto. Da agosto ne parliamo. Devo dire, già durante il mese di agosto con il Sole 24 Ore abbiamo prodotto dei fascicoli, potete trovarli ancora disponibili in formato digitale sul sito del Sole 24 Ore, il sole24ore.com. dicevo, dei fascicoli in cui abbiamo dato amplissime anticipazioni del contenuto di questi decreti. Però, come sanno bene coloro che si occupano per lavoro di guardare la Gazzetta Ufficiale rigo a rigo, bisogna sempre aspettare di vedere il testo definitivo. Allora, ce li abbiamo, ci sono i due decreti che danno l'operatività, completano l'operatività normativa per il super bonus del 110%. Oggi sul Sole 24 Ore c'è un'intera pagina dedicata a questo importante completamento, esatto, della normativa. Attenzione a una cosa, poi magari Deborah ne parleremo. Sì, esatto, assolutamente. Non oggi, quindi non telefonateci oggi. Oggi parliamo di assicurazioni e di educazione finanziaria, però parleremo di 110% perché adesso si crea, diciamo così, uno spartiacque. Chi avesse già avviato i lavori dovrà rifarsi ai decreti di qualche anno fa, di una dozzina di anni fa, che sono sempre decreti del Ministero dello Sviluppo Economico, ma con altri criteri. Chi invece comincia ora i lavori ha i nuovi criteri. In qualche caso sono anche più generosi, quindi consentono un accesso più facile al 110%. Tutti i particolari non in cronaca, come si dice, ma sul Sole 24 Ore di oggi. Abbiamo una Corte di Cassazione molto attiva sul tema della casa ultimamente. Allora, io la introduco questa notizia, dopodiché ovviamente per questioni di competenza la completi tu, perché non la saprei neanche spiegare ai nostri ascoltatori. No, scusate, qua c'è una connessione internet che mi sta facendo le bizze stamattina. Allora, con una sentenza credo recentissima, la Corte di Cassazione ha aperto la strada al recupero dell'elusione IMU sulle doppie abitazioni principali. Allora, che cosa mi succede? È un tema delicato. Allora, come sai, qualcuno ha pensato che se tu ed io fossimo marito e moglie, e che so, tu prendi casa nella nostra seconda casa al mare, mm-hmm, e io mantengo invece nella nostra casa di città. Intanto, perché dovremmo farla questa scelta? E perché così praticamente sono due prime case. Ottimo. E allora, essendo due prime case, l'IMU non la pagheresti in linea teorica. Avevamo pensato così, ma in realtà la Cassazione, con la sentenza 20.130 di quest'anno, 20.130, ha detto: no, non è mica così. Né l'abitazione né in città, né quella turistica, quella al mare, io ho detto al mare, ma insomma anche in montagna, in collina, dove volete, possono considerarsi, hanno detto i supremi giudici, abitazione principale. Perché la disciplina IMU dice: l'abitazione principale è l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto urbano come unica unità immobiliare dove il possessore e i componenti dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Bene. Questo però non è la sola cattiva notizia, è che adesso i comuni possono andare indietro per 5 anni a controllare se avevamo fatto tu ed io questo giochino. Lo spacchettamento di famiglia lo chiamano, quindi non so se è un concetto che è addirittura introdotto con questa sentenza alla Cassazione, ma attenzione a spacchettare il nucleo familiare in due abitazioni distinte per avere delle agevolazioni fiscali, perché non solo non vi è consentito da ora in avanti, ma se lo avete fatto anche nei 5 anni indietro, attenzione che il comune può venire a bussare alla vostra porta a chiedere il pregresso Eh sì, per gli anni arretrati in cui abbiamo adottato, avreste adottato questa particolare visione dell'utilizzo delle vostre abitazioni. Se io invece avessi fatto dei lavori in casa per riqualificare dal punto di vista del riscaldamento o dell'illuminazione la mia abitazione, non lo so, no, volevo tentare di introdurre la notizia sul palco eolico, ma è impossibile. Allora, non siamo riusciti con Claudia Schiattone, che quest'oggi ha la grande fortuna di assisterci. È alla badanza del sottoscritto in regia, e assiste invece Debora, proprio insieme a Gianmarco Ferronato di là, con tutti i suoi pirulini, i suoi tastini, portando anche dei gran taralli, posso dire questa cosa qua, da parte di Claudia. Sì, certo. Naturalmente, ecco, so che vi ha molto divertito questa notizia, che invece a me sembra molto interessante. Il palo eolico è sempre un problema di immobile, sempre un problema di tassazione, perché oggi sul Sole 24 Ore Marianna Tognoni ci spiega che la Corte di Cassazione boccia la tesi del fisco e dice: attenzione, perché il palo eolico va escluso dalla determinazione della rendita catastale dell'impianto eolico medesimo, quindi non bisogna calcolare il palo eolico. Cercavamo con Claudia, faceva il palo della banda dell'Ortica, ma non abbiamo fatto a tempo a trovare il brano richiesto. Dopodiché c'è tutta una serie di indicazioni che vengono date oggi nelle pagine di Norme e Tributi, da leggere sempre religiosamente. Sappiate solo che il fisco aveva insistito molto su una diversa lettura, cioè il palo eolico andava compreso nella rendita catastale, invece adesso il palo eolico è buon per lui e viene escluso addirittura dalla Suprema Corte, dalla Cassazione, della Corte di Cassazione, dalla determinazione di questa rendita. Vorrei fare un piccolo antipasto rispetto al tema che affronteremo a partire dalle 11.30, il tema dell'educazione finanziaria. Lo abbiamo detto un milione di volte, ormai sarete anche esausti dal sentircelo dire, ma in realtà state molto attenti a queste segnalazioni perché sono interessanti e magari vi può capitare anche sul territorio di trovare un'iniziativa da seguire direttamente. Mese dell'educazione finanziaria, oltre a tutte le iniziative centrali condotte e coordinate dal Comitato Nazionale per l'Educazione Finanziaria, ci sono tante iniziative private sul territorio messe a punto da tanti organismi ed associazioni, ve ne segnaliamo un paio. Allora, intanto c'è l'iniziativa della FABI, che è la federazione, appunto, è il sindacato dei bancari nella sostanza, che ha organizzato la campagna La FABI fa scuola, ed è stata appunto l'iniziativa inserita per il terzo anno consecutivo fra quelle del Comitato per la Programmazione e il Coordinamento delle Attività di Educazione Finanziaria. Che cosa farà FABI? Torna in campo appunto per promuovere la conoscenza e la competenza di tutti i cittadini attraverso, per esempio, la diffusione di una guida per l'utilizzo del bancomat e delle carte di pagamento, un decalogo per evitare le truffe finanziarie, una mappa per individuare i costi dei prodotti e dei servizi bancari, la gestione delle identità digitali nei rapporti con le banche, tema di cui abbiamo parlato moltissimo anche ieri, come ricorderete. E quindi questi sono gli argomenti al centro di una serie di video animati realizzati appunto per questo mese. Se volete avere tutte le informazioni, andate sul sito appunto di FABI. E poi c'è tutto il programma messo in pista da Banca Intesa San Paolo, Mauro. Esattamente, con il mese dell'educazione finanziaria c'è un programma di eventi in presenza ma anche online ma anche in presenza da parte del Museo del Risparmio di Intesa San Paolo. Museo del Risparmio, come sapete, è sito in Torino, però se volete maggiori informazioni anche per sapere quali sono gli eventi online e quali invece saranno svolti direttamente in presenza in modo fisico, museodelrisparmio.it, lì trovate tutte le indicazioni. Vi segnalo che ci sono una serie di attività per le scuole, che ci sarà un workshop online sulla educazione finanziaria dei centennials tra digitale e innovazione didattica il 12 ottobre. E poi tutta una serie di ricerche, di incontri anche importanti con autori e divulgatori finanziari. And we're down, we go. E allora, un altro tema da approfondire questa mattina, ne vale sicuramente la pena. Ti ricorderai, Mauro, quando siamo finiti tutti in lockdown, io ero a casa, tu eri qua, uno dei primi temi dei quali abbiamo parlato. Allora, c'erano tante necessità espresse dalle famiglie italiane, c'era chi aveva bisogno di sospendere il pagamento del mutuo perché non sarebbe arrivato alla fine del mese, visto che le attività economico-produttive si sono fermate praticamente tutte, e molti invece non riuscivano a pagare il canone d'affitto. Questo vale per le famiglie naturalmente, ma valeva molto anche per gli esercizi commerciali, attività economico-produttive. Che cosa è successo però? Che chiaramente i proprietari di queste abitazioni, qualcuno con un po' di buonsenso è venuto ad un accordo di natura privata, no? Con i propri conduttori. In altri casi invece qualcuno non ci stava e insomma tutte queste questioni sono persino finite in tribunale, in molti tribunali, che hanno cominciato però a decidere diversamente. Esattamente, e così ha riferito l'avvocato Marisa Marraffino, che è una ospite abituale di Due di Denari, non solo di Due di Denari, devo dire, qui a Radio 24, nonché sì, esperta del Sole 24 Ore. Farfalleggia da una puntata, da una trasmissione ad un'altra. E questo bisognerà che lo regoliamo. Avvocato Marraffino, buongiorno. Buongiorno, perché è sempre un piacere stare con voi. Ma noi siamo un pochino gelosi, però insomma, no, veniamo, non sì, scherziamo, parliamo di questa cosa molto seriamente, sì, perché lo è. Lei ha segnalato ieri sul Sole 24 Ore, ci sono sentenze in cui i tribunali hanno detto che bisogna addivenire a uno sconto per l'inquilino, sostanzialmente. Sì. Adesso io allora, riassumo male, però il cuore dell'articolo questo era. Allora, ci sono alcuni tribunali, quindi sta cominciando adesso ad esserci proprio una giurisprudenza a 6 mesi di lockdown. Alcuni tribunali, diciamo, che cercano di dare una mano agli inquilini, no? Perché il vero problema è che non esiste, non c'è stato tra i vari DPCM un DPCM che abbia espressamente previsto la riduzione dei canoni per gli inquilini ad uso abitativo, no? Quindi che hanno un contratto di locazione ad uso abitativo. Quindi cosa succede? Nei mesi, soprattutto da marzo a maggio, alcuni si sono trovati proprio nell'impossibilità di pagare il canone d'affitto. Alcuni proprietari purtroppo hanno mandato avanti le procedure di sfratto. Quindi i tribunali sono d'accordo nel dire che non può essere convalidato lo sfratto se l'inquilino non paga soltanto quei mesi. Il problema è che poi però, finito il lockdown, bisogna ricominciare a pagare anche i canoni arretrati. Cioè, cosa vuol dire? Non sono previsti sconti. Alcuni tribunali invece tendono ad aiutare l'inquilino dicendo sì, però cerchiamo di interpretare, di stressare un po' le norme, anche se non esiste una norma ad hoc, interpretiamo la norma sulla buona fede contrattuale, nel senso di dire che questa deve però prevedere un aiuto all'inquilino che in quel mese era in difficoltà, non soltanto all'inquilino quindi che occupa ad uso abitativo un immobile, ma anche pensiamo agli alberghi, voi prima giustamente dicevate anche i ristoranti che sono chiusi, no? Sono stati chiusi nei mesi marzo-aprile, addirittura insomma non avevano nessuno, no? E quindi laddove non si può trovare un accordo sarebbe opportuno cercare una soluzione. Devo dire che però purtroppo la maggior parte delle pronunce va nel senso di non prevedere riduzioni, proprio perché non esiste una norma specifica sul punto. Però ecco, non prevede riduzioni, ma eventualmente dice, se capisco bene, non si dà luogo allo sfratto se il mancato pagamento coincide con i mesi del lockdown, quindi ad esempio fosse un'attività commerciale non c'era proprio la possibilità di ottenere alcun ricavo, oppure altra possibilità, consentite una sorta di piano di rientro dal debito, non imponendo all'inquilino condizioni troppo onerose per ripagare subito tutto quello che non è stato pagato. Esatto, è una dilazione, cioè quello della legge espressamente consente è dire pagate dopo, però pagate l'intero, e alcuni però inquilini non ci stanno, no? Quindi cercano lo stesso la via giudiziaria, e allora lì sono i giudici che sono messi purtroppo nelle condizioni di interpretare le norme esistenti col metro del buonsenso. Certo. È per questo che ieri abbiamo dato notizia sul Sole 24 Ore del fatto che c'è anche una difformità di vedute tra alcuni tribunali. A volte lo stesso tribunale di Roma, ad esempio, decide in maniera diversa, no? Perché interpreta le norme in maniera diversa. E questo insomma ci dice che effettivamente poi ogni situazione deve essere considerata come situazione a sé stante, non può esserci una disciplina generalizzata, al punto che invece per esempio c'è questa situazione del Tribunale di Alessandria che ha respinto la richiesta di riduzione del canone per i mesi di lockdown perché non pattuita tra le parti, per cui magari una situazione viene gestita in maniera più morbida nel caso in cui le due parti che devono dipanare la matassa arrivano davanti ad un tribunale magari con un preaccordo fissato nei mesi passati. Esatto, l'accordo prevale sempre, quindi se c'è l'accordo tra le parti, e questo è l'invito, no? Anche per evitare poi l'incertezza di un'eventuale causa, vale sempre l'invito a trovare un accordo soprattutto nei casi in cui l'inquilino era regolare nei pagamenti, no, fino al mese di marzo, e poi da marzo a luglio si è trovato nella oggettiva impossibilità di adempiere. Una soluzione che tutti i tribunali danno, ma a mio parere non è una soluzione percorribile nella maggior parte dei casi, è quello di invocare la risoluzione per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità. Cioè, cosa vuol dire? L'inquilino potrebbe risolvere il contratto, però poi perde la casa o l'immobile, insomma, che occupa, sì, no? Cioè deve risolvere il contratto e poi deve andare via, e questa non è una soluzione per tenere in piedi molte attività commerciali, ecco. Ma conviene, se si trova un accordo tra le parti, mettere tutto per iscritto, avvocato? Sì, sì, certo. Ogni accordo deve essere messo per iscritto e va comunicato anche all'Agenzia delle Entrate, che a questo proposito ha istituito una piattaforma telematica per l'invio e l'inoltro delle comunicazioni. Quindi l'invito che facciamo anche noi legali è sempre quello di trovare, certo, un accordo laddove poi c'è la buona volontà. Anche di pagare, perché gli accordi, no, verbali valgono, quindi, quello che valgono, anche se siamo tanto, sì, amici, ma con una situazione di difficoltà economica come quella che abbiamo vissuto in tanti, come quella che è stata vissuta appunto da molte famiglie italiane, poi. Ma poi non è detto. Verba volant. Ovviamente, sì, l'inquilino è sicuramente soggetto debole in questo rapporto, ma non è detto che il proprietario abbia chissà quali altre entrate. Quindi, esatto, magari quella era la sua entrata, e quindi anche per lui poi rinunciare a quell'introito può diventare un momento di difficoltà. Purtroppo, Mauro, non esiste una polizza per tutelarsi nel caso in cui non si riesca a pagare l'affitto. Esiste quella per il mutuo, ma non quella per l'affitto, mi pare. Però, ma adesso sottoporremo la questione tra poco nel nostro spazio di educazione finanziaria all'alfabeto del risparmio. Se vuole può restare all'ascolto, avvocato Marraffino. Grazie, grazie a Marisa Marraffino, anche a lei. Grazie a lei. Sa, avrei un impegno, se non ti dispiace. Ah, adesso. Scusami, il tempo vola quando ci si diverte. Le borse, le borse. Ho apprezzato particolarmente il sapiente uso dell'enjambement. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Due di denari. L'alfabeto del risparmio. Le scelte per ripartire. E allora, caro Mauro, siamo al sesto giorno del mese dell'educazione finanziaria. Ieri è stata la giornata a Roma dell'educazione assicurativa. Un'educazione su cui, mi pare di aver capito, c'è parecchio da fare, perché è un tema su cui siamo un pochino impreparati. Allora, ci dicono sempre che siamo debolucci in educazione finanziaria in generale, ma in particolare qui è un po' come la matematica per me quando andavo a scuola, insomma, qui siamo molto molto deficitari. Non so se condivide questa valutazione poco generosa Dario Focarelli, il direttore generale ANIA, che questa mattina ci aiuta per il nostro alfabeto del risparmio di quest'oggi. Buongiorno, direttore. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi. Allora, sì, purtroppo siamo debolucci? Purtroppo gli indicatori internazionali dicono di sì. Diciamo, c'è una indagine OCSE del 2020 in cui l'Italia ottiene uno degli score più bassi in termini di financial literacy degli adulti. Sì, quindi capacità di comprendere le questioni finanziarie, insomma, alfabetizzazione finanziaria, potremmo tradurre. E nei famosi indagine OCSE PISA, questa qui del 2018, anche i ragazzi in matematica non erano certo, diciamo, in valori superiori alla media. Quindi purtroppo sì, gli indicatori internazionali questo ci dicono, anche se diciamo, poi ci sono tutta una serie di attività anche molto importanti che molte istituzioni stanno facendo e che forse, almeno in un periodo medio-lungo, dovrebbero portare dei risultati importanti. Dottor Focarelli, la vorrei coinvolgere su un tema che si è palesato poco prima dell'avvio di questa parte della nostra trasmissione, prima di iniziare il nostro alfabeto del risparmio. Abbiamo parlato di tutte quelle difficoltà che molte famiglie italiane hanno avuto durante i mesi di lockdown. Molte non sono riuscite ad onorare l'impegno del mutuo, altre non sono riuscite a pagare l'affitto. Ci si può tutelare nel caso in cui non si riesca a pagare l'affitto della propria abitazione? Perché sta stavo controllando adesso che ci sono delle segnalazioni di ascoltatori che ci dicono sì, la polizza per l'affitto c'è, ma in realtà da quello che capisco tutela il proprietario di un'abitazione, appunto nel caso in cui abbia fatto sottoscrivere un contratto d'affitto a poi locatari che si rivelano inadempienti e che non riescono appunto a pagare il canone. Ecco, questo è un mercato interessante, ricco in Italia, ma mi pare che invece non ce ne siano molte di queste soluzioni. Allora sì, purtroppo diciamo, lo dice anche l'indagine che ha fatto il comitato Edufin con la Doxa tra maggio e giugno, chiaramente aumenta la percentuale di famiglie che hanno difficoltà, come si dice gergalmente, ad arrivare alla fine del mese. Secondo l'indagine della Doxa, prima della pandemia era il 46% delle famiglie, dopo la pandemia il 58%, quindi un aumento piuttosto considerevole. Per quanto riguarda la cosa a cui lei fa riferimento, sì, esiste, ma come ha detto correttamente lei, in genere sono delle polizze che coprono, diciamo, il rischio del proprietario di casa, cioè il proprietario di casa conta sull'affitto, non lo riceve più e quindi diciamo, la polizza in qualche modo in genere per un periodo temporaneo di qualche mese, certo, copre e interviene. Che io sappia, potrei clamorosamente deve essere smentito. No, parte, vabbè, ma guardi, è un tema che è uscito adesso. La protezione, diciamo, della persona contro l'incapacità di pagare. Esatto, esiste. Lo dicevamo con Mauro. Sì. No, mi scusi. Prego. No, volevo soltanto dire che esiste ovviamente per la difficoltà di pagare il mutuo in caso di perdita, infatti, di lavoro, eccetera. Non credo esista qualcosa del genere sull'affitto, ma magari indagheremo meglio. Ecco, tra l'altro, appunto, noi stiamo parlando in generale di polizze di assicurazione, è un mondo, come sappiamo, molto composito, molto vario, e a questo proposito allora abbiamo una scheda proprio dedicata alla parola di oggi, A come assicurazione. La scheda. A come assicurazione. Cioè, come spiega il glossario sul sito quellochecontra.gov.it, quel contratto tra due parti delle quali una si impegna ad anticipare una data somma di denaro che viene chiamata premio e l'altra a risarcire un eventuale danno indicato nel contratto, se è un'assicurazione contro i danni, oppure a corrispondere una somma di denaro sotto forma di capitale o di rendita, se è un'assicurazione del ramo vita. L'operatività di questo contratto è data dalla polizza, che regola i rapporti tra impresa di assicurazione, il contraente e l'assicurato. Chiunque si metta alla guida sa bene di dover disporre di un'assicurazione per responsabilità civile, detta RC Auto. Ma anche chi ottiene un mutuo per acquistare casa sa di dover sottoscrivere una polizza per garantire se stesso e la banca che concede il mutuo dal rischio di incendio e scoppio. E in entrambi i casi le garanzie offerte dalla compagnia di assicurazioni possono estendersi a molte voci per coprire più aventi infausti. Questo tipo di assicurazioni è però solo una parte dell'offerta di polizze, che dalla copertura di diversi tipi di rischio, dal recesso alla perdita del posto di lavoro alla non autosufficienza, si ampliano spesso per assumere le caratteristiche di un investimento finanziario vero e proprio. Il mercato è quindi quanto mai ampio ed eterogeneo, ed è bene farsi spiegare nel dettaglio quali sono i rischi coperti e a quali condizioni, per evitare incomprensioni e delusioni. Ed è poi sempre bene seguire uno dei 5 consigli fondamentali del Comitato per l'Educazione Finanziaria. Non firmare se non hai compreso. Beh, per forza siamo un popolo di sottoassicurati. Avete mai provato o avete mai dovuto avere dei rimborsi da delle assicurazioni? Saltano fuori milioni, milioni di clausole, sottoclausole che alla fine della corsa ti rimborsano, non dico la metà, ma un po' più della metà del danno che hai subito. E allora la diffidenza, come abbiamo sentito da questo messaggio arrivato via WhatsApp al nostro 349-238-6666, la diffidenza di noi italiani nei confronti delle compagnie di assicurazione sembra essere ancora ben diffusa, molto diffusa.

Allora, intanto vi leggo anche qualche altro messaggio che sta arrivando su WhatsApp. Un ascoltatore ci racconta: ho appena acquistato casa, non trovo un'assicurazione che paghi più di 2.000 euro in caso di furto. Com'è possibile? E invece, per quello che riguarda l'assicurazione sulla vita, quasi tutte le compagnie mi chiedono un contratto di almeno 4 anni. Come non si fa ad essere diffidenti? E beh, naturalmente le condizioni di rischio dalle quali ci vogliamo proteggere sono dei rischi anche per le compagnie di assicurazione, che quindi chiedono evidentemente più garanzie rispetto al passato. È cambiato il mondo del lavoro, dottor Focarelli, insomma, quindi i rischi vanno un po' distribuiti fra tutti, compagnie e privati che devono sottoscrivere questi contratti. Beh, diciamo, i rischi vanno distribuiti nella modalità in cui attraverso il contratto, la polizza, diciamo, vengono allocati. Per venire, diciamo, alle due domande specifiche, il contratto di almeno 4 anni sulla polizza vita, diciamo, adesso non capisco se è una temporanea per caso morte. No, ma bisognerebbe conoscere i dettagli, ovviamente non le chiediamo di rispondere ai singoli casi degli ascoltatori che ci scrivono in una riga tutta la loro vita, e è impossibile poter dare loro una risposta, quindi la esoneriamo molto serenamente da questo. Però in generale, contratti multiannuali molto spesso vanno a beneficio delle persone. Pensi che bello sarebbe avere un contratto, e non esiste un contratto, per esempio, di assicurazione sanitaria per tutta la vita, mentre invece sappiamo le difficoltà che le assicurazioni hanno ad offrire contratti, diciamo, oltre una certa età o in certe condizioni di patologia, eccetera. Quindi, come dire, non necessariamente il cliente che cerca un contratto monoannuale sta facendo il suo interesse, se ci pensa bene. E qui ritorniamo al tema dell'educazione finanziaria. E al tempo stesso, diciamo, l'esperienza del mutuo è un'esperienza talmente coinvolgente: si mette su casa, probabilmente è la prima volta, diciamo, che ci si allontana dalla famiglia. È chiaro che cautelarsi, diciamo, con delle polizze assicurative che garantiscono te e magari la tua famiglia da eventi estremi, chiaramente è una cosa che ha un grandissimo. Dottor Focarelli, sì, le volevo chiedere un'altra cosa che è una curiosità, per la verità. Gli ascoltatori si lamentano perché poi ognuno evidentemente si è confrontato con una storia particolare, ognuno ha il suo episodio da raccontare, ma in termini generali noi ci sembra di avere a che fare sempre con delle offerte standard da parte delle compagnie, ma io credo che sia anche un mercato che si sia molto personalizzato ultimamente, cioè se tu rappresenti le tue situazioni, le tue esigenze particolareggiate, è vero che l'industria è sempre più in grado di costruire, come si dice, quelle offerte tailor made, tagliate su misura del bisogno della famiglia o dell'individuo? Io penso assolutamente sì. Diciamo, parlavamo dell'RC Auto, e pensi a quanto è tailor made, diciamo, una polizza che si basa sulla scatola nera, no? Quindi esattamente come guidi, quello che fai, eccetera, poi alla fine inevitabilmente si riflette sul tuo prezzo e probabilmente si riflette positivamente, visto che poi alla fine tanti italiani mettono la scatola nera e ottengono, diciamo, dei prezzi che ritengono più vantaggiosi. Lo stesso avviene, diciamo, su altri tipi di polizza, le polizze sanitarie collegate ai device che permettono, diciamo, il controllo a distanza, diciamo, della pressione, piuttosto che altre forme di diagnostica, eccetera. Quindi l'assicurazione sta andando esattamente in questa direzione, utilizzando sostanzialmente, diciamo, le nuove tecnologie e la velocità che queste nuove tecnologie permettono di conoscere, diciamo, i cambiamenti in cui incorre l'assicurato. Quindi la risposta è assolutamente sì, si va verso una forma sempre più personalizzata, sì. la sua definizione. E naturalmente ci sono anche dei rischi in questo processo, perché la situazione è anche mutualità, e quindi chiaramente, diciamo, se tu riesci a fare un prezzo molto buono a uno che per n condizioni è un rischio buono, naturalmente il rischio è che poi ci sia un prezzo alto per chi invece non è in quelle condizioni. Quindi, diciamo, la mutualità in qualche modo è un grande valore assicurativo, che tanto più tu arrivi ad avere, diciamo, il tuo prezzo, tanto più